Certo, pagherò tutto, Mrs. Garth, alla fine, disse balbettando. Già, alla fine, fece Mrs. Garth, la quale, siccome detestava in modo particolare le belle parole nelle brutte occasioni, ora non poté soffocare una battuta pungente. Ma i ragazzi non si possono mandare a fare gli apprendisti alla fine, dovrebbero fare gli apprendisti a 15 anni. Non era mai stata meno incline a trovare scuse per Fred. Io ho sbagliato più di tutti, Susan, disse Caleb. Fred mi aveva assicurato di trovare i soldi, ma io non avevo nessun motivo di mischiarmi in cambiali. Suppongo che ti sia guardato attorno e abbia tentato ogni mezzo onesto, aggiunse fissando gli occhi compassionevoli su Fred. Caleb era troppo sensibile per fare il nome di Mr. Fairstone. Sì, ho tentato tutto, veramente. Avrei dovuto avere 130 sterline pronte se non fosse stato per un incidente con un cavallo che stavo per vendere. Mio zio mi aveva dato 80 sterline e ne ho date via 30 assieme al mio cavallo vecchio per procurarmene un altro, che avevo intenzione di vendere a 80 e più. Ero deciso a fare senza cavallo, ma adesso si è rivelato bizzarro e si è azzoppato. Oh, se io e anche i cavalli fossimo andati al diavolo prima che io vi procurassi questo guaio. Non c'è nessun altro che mi prema tanto. Voi e Mrs. Gar siete sempre stati così gentili con me. Comunque, inutile dirlo. Ora mi considererete sempre un mascalzone. Fred si girò e uscì precipitosamente dalla stanza, consapevole di aver assunto un tono piuttosto effeminato e con la confusa sensazione che il suo dispiacere non serviva granché ai Garth. Lo videro montare a cavallo e oltrepassare rapidamente il cancello. Sono delusa di Fred Vincey, disse Mrs. Garth. Prima non avrei creduto che ti avrebbe coinvolto nei suoi debiti. Sapevo che era uno spendaccione, ma non sapevo che fosse così meschino di appioppare i suoi rischi al suo più vecchio amico che poteva permettersi di rimetterci meno di tutti. Sono stato uno stupido, Susan. Questo è vero, disse la moglie con un cenno di assenso e sorridendo, ma io non sarei andata a gridarlo in piazza. Perché mi hai dovuto tenere nascoste queste cose? È come con i tuoi bottoni, lasci che si stacchino senza dirmelo ed esci con i polsini penzolanti. L'avessi soltanto saputo, avrei potuto essere pronta con qualche progetto migliore. Sei tristemente addolorata, lo so, Susan, disse Caleb, guardandola commosso. Non posso sopportare il pensiero che perdi i soldi che avevi racimolato per Alfred. Ho fatto benissimo a racimolarli e tu dovrai subirne le conseguenze, perché tu stesso dovrai insegnare al ragazzo. Devi lasciar perdere le tue cattive abitudini. Certuni si danno al bere e tu ti sei dato a lavorare senza essere pagato. Devi abbandonarti un po' meno a questo e devi correre da Mary e chiedere alla figliola quanti soldi ha. Caleb aveva spinto indietro la sedia e stava piegando in avanti, scuotendo lentamente il capo e unendo le punte delle dita con molta precisione. Povera Mary, disse Susan, proseguì in tono più basso. Temo che sia innamorata di Fred. Oh no! Lo prende sempre in giro e lui non è probabile che pensi a lei altro che come una sorella. Caleb non ribatté nulla, ma quasi subito si abbassò agli occhiali, tirò la poltrona fino alla scrivania e disse: Al diavolo la cambiale! Vorrei che fosse Hannover. Queste cose sono la triste interruzione degli affari. La prima parte del suo discorso conteneva tutta la sua riserva di maledizioni e fu pronunciata con un tono lievemente ringhioso, facile da immaginare. Ma sarebbe difficile trasmettere a coloro che non lo udivano mai pronunciare la parola affari il tono particolare di fervente venerazione, di rispetto religioso in cui l'avvolgeva, come si avvolge un simbolo consacrato nel suo lino bordato d'oro. Caleb Garth scuoteva spesso il capo, meditando sul valore e l'indispensabile forza del lavoro, dalle mille teste e dalle mille mani, grazie al quale il corpo sociale viene nutrito, vestito e dotato di una casa. Quest'idea si era impadronita della sua immaginazione fin dall'infanzia. Gli echi del grande martello dove il tetto o la chiglia si stavano fabbricando, le grida d'intesa degli operai, il ruggito della fornace, il tuono e lo sciabordio del motore, per lui erano una musica sublime. L'abbattimento e il carico del legname, l'enorme tronco che vibrava come una stella lontana lungo la strada maestra, la gru al lavoro sul molo, i prodotti ammassati nei magazzini. La precisione e la varietà dello sforzo muscolare, dovunque si doveva compiere un lavoro esatto. Tutte queste cose, viste in giovinezza, avevano agito su di lui come la poesia senza l'aiuto dei poeti. Erano divenute una filosofia senza l'aiuto dei filosofi, una religione senza l'aiuto della teologia. La La sua prima ambizione era stata quella di avere una parte il più possibile attiva in questa fatica sublime, che da lui era particolarmente nobilitata col nome di affari. E sebbene fosse stato agrimensore solo per breve tempo, o fosse stato soprattutto un autodidatta, ne sapeva più lui di terra, costruzioni, miniere, della maggior parte degli uomini specializzati della contea. La sua classificazione delle occupazioni umane era piuttosto rozza e, come le categorie fissate da uomini più famosi, non sarebbe accettabile in questi tempi progrediti. Egli le divideva in affari, politica, predicazione, apprendimento e divertimento. Contro queste ultime quattro egli non aveva nulla da dire, ma le considerava come un pagano dallo spirito riverente considerava degli dèi diversi dai propri. Allo stesso modo egli pensava bene di tutti i ceti, ma a lui non sarebbe piaciuto appartenere a nessun ceto che non lo mettesse in contatto così stretto con gli affari, da uscirne spesso decorato con segni di polvere malta, con l'umidità del motore o la terra dolce dei boschi e dei campi. Sebbene non si fosse mai considerato altro che un cristiano ortodosso, e avrebbe discusso sulla grazia predestinata, se l'argomento gli fosse stato proposto, credo che le sue divinità affettive fossero dei buoni piani pratici, il lavoro accurato e il fedele mantenimento delle promesse. Il suo principe delle tenebre era un lavoratore fiacco. Ma in Caleb non vi era alcun scetticismo e il mondo gli sembrava così stupendo che era pronto ad accettare un numero qualsiasi di sistemi come un numero qualsiasi di firmamenti, poiché naturalmente non interferissero con il miglior drenaggio dei campi, l'edificazione solida, la misurazione corretta e la perforazione prudente per il carbone. In effetti aveva un'anima riverente, con una forte intelligenza pratica, ma non riusciva ad amministrare i soldi. I valori li conosceva bene, ma era privo della perspicacia necessaria per valutare i risultati pecuniari sotto forma di profitti e perdite. Ed avendo verificato questo a proprie spese, decise di rinunciare ad ogni forma dei suoi amati affari che richiedesse quella capacità. Si dedicò interamente ai molti generi di lavoro che poteva eseguire senza manipolare un capitale, e nella sua contea era uno di quegli uomini preziosi che tutti avrebbero voluto che lavorasse per loro, perché faceva bene il suo lavoro, faceva pagare assai poco e spesso rifiutava assolutamente di farsi pagare. Non c'è da meravigliarsi quindi se i Garth erano poveri e vivevano in ristrettezze. Tuttavia, a loro non importava. Capitolo 25. Fred voleva arrivare a Stone Court quando Mary non poteva aspettarselo e quando lo zio non fosse da basso. In questo caso poteva darsi che fosse seduta sola nel salotto rivestito di legno. Lasciò il cavallo nel cortile per non fare rumore sulla ghiaia del piazzale ed entrò nel salotto senza lasciar trapelare altro che il rumore della maniglia della porta. Mary era nel suo angolo consueto che rideva sui ricordi scritti da Mr. Piozzi su Johnson e alzò gli occhi con lo spasso ancora sul volto. Questo svanì gradualmente al vedere Fred avvicinarsi senza aprire bocca e fermarsi in piedi davanti a lei, col gomito appoggiato alla mensola del caminetto, scuro in volto. Anch'ella rimase muta, si limitò a sollevare gli occhi verso di lui con aria interrogativa. «Mary», cominciò, «sono un furfante buona nulla». «Direi che di quegli epiteti ne basterebbe uno alla volta», disse Mary cercando di sorridere ma con un senso di allarme. «So che non penserai più bene di me. Mi crederai un bugiardo, mi crederai disonesto. Penserai che non volevo bene a te o a tuo padre o a tua madre. Davvero? Mi giudichi sempre sotto la luce peggiore, lo so». «Non posso negare che penserò di te tutto questo, Fred, se me ne darai un buon motivo. Ma ti prego, dimmi subito cosa hai fatto. Preferisco sapere la dolorosa verità piuttosto che immaginarla». «Avevo un debito. 160 sterline. Ho chiesto a tuo padre di avallarmi una cambiale. Pensavo che la cosa non comportasse niente per lui. Ero sicuro di pagare i soldi da me e ho cercato di farlo con tutte le forze che ho potuto. E adesso sono stato così sfortunato. Un cavallo si è rivelato poco buono. Posso pagare solo 50 sterline e non posso chiedere i soldi a mio padre. Non mi darebbe un centesimo. E mio zio mi ha dato 100 sterline poco tempo fa. Così, cosa posso fare? E adesso tuo padre non ha del liquido a disposizione e tua madre dovrà impiegare per il pagamento le 92 sterline che aveva risparmiato e dice che anche i tuoi risparmi dovranno essere impiegati. Capisci che... Povera mamma, povero babbo, fece Mary e i suoi occhi si colmarono di lacrime mentre le venne un piccolo singhiozzo che cercò di soffocare. Guardò diritto davanti a sé, senza badare a Fred, e gli si presentarono tutte le conseguenze che ci sarebbero state in famiglia. Anche egli rimase muto per qualche momento, sentendosi più infelice che mai. Non avrei voluto farti tanto male per tutto l'oro del mondo, Mary, egli disse infine. Non potrei mai perdonarmi. Cosa importa se io ti perdono? Disse Mary in tono appassionato. Renderebbe più sopportabile per mia madre perdere i soldi che ha guadagnato dando lezioni per 4 anni per poter mandare Alfred alla scuola di Mr. Hammer. Considereresti tutto questo abbastanza piacevole se ti perdonassi? Di quello che vuoi, Mary, me lo merito tutto. Non voglio dire niente, fece Mary con aria più tranquilla. È inutile che mi arrabbi. Si asciugò gli occhi, mise da parte il libro, si alzò e andò a prendere il cucito. Fred la seguì con lo sguardo, sperando di poter incontrare il suo e in tal modo trovare un accesso per il suo implorante pentimento, ma no, Mary poteva evitare facilmente di sollevare lo sguardo. Mi addolora veramente che i soldi di tua madre vadano persi, le disse quando si fu seduta di nuovo e si mise a cucire svelta. Volevo chiederti, Mary, non pensi che Mr. Thurston, se tu glielo chiedessi, gli dicessi, voglio dire, di mandare Alfred a fare l'apprendista, vi anticiperebbe i soldi? Alla mia famiglia non piace elemosinare, Fred. Preferiremmo lavorare per guadagnarci i nostri soldi. Inoltre, dici che Mr. Thurston ti ha dato ultimamente 100 sterline. Di rado fai dei regali, a noi non ne ha mai fatti. Sono sicura che mio padre non gli chiederà niente, e anche se mi decidessi a chiedergli l'elemosina, sarebbe inutile. Sono così infelice, Mary, se sapessi come sono infelice, ti dispiacerebbe per me. Ci sono altre cose per rattristarsi maggiormente, ma gli egoisti pensano sempre che la loro afflizione sia più importante di qualsiasi altra cosa al mondo. Ne vedo sufficienti esempi ogni giorno. Non è proprio giusto chiamarmi egoista. Se tu sapessi cosa fanno altri giovani, mi considereresti ben lungi dall'essere un cattivo soggetto. Io so che quelli che spendono un sacco di soldi per se stessi, senza sapere come fanno a faranno a pagare, devono essere egoisti. Pensano sempre a quello che possono procurarsi e non a quello che gli altri possono perdere. Chiunque può essere sfortunato, Mary, e non trovarsi in grado di pagare quanto voleva. Non c'è uomo migliore di tuo padre al mondo, eppure si è trovato nei guai. Come osi fare un paragone fra mio padre e te, Fred? Disse Mary profondamente indignata. Non si è mai messo nei guai per avere pensato ai suoi oziosi piaceri, ma perché pensava sempre al lavoro che faceva per altri. E se l'è passata male, e ha lavorato sodo per riparare alle perdite di tutti. E tu pensi che io non cercherò mai di riparare a nulla, Mary? È ingeneroso credere alle cose peggiori in un uomo. Quando hai un qualche potere su di lui, penso che potresti cercare di approfittarne per renderlo migliore. Ma questo non lo fai mai. Comunque me ne vado, terminò Fred in tono languido. Non tornerò più a parlarti di nulla. Mi dispiace moltissimo per tutti i guai che ho provocato. Questo è tutto. Mary aveva lasciato cadere dalle mani il lavoro e alzò gli occhi. Vi è spesso qualcosa di materno, persino nell'amore di una ragazza. E la dura esperienza di Mary aveva conferito alla sua natura una sensibilità assai diversa da quella cosa dura e di poco conto che chiamiamo l'essere ragazza. Alle ultime parole di Fred avvertì un dolore istantaneo, qualcosa di simile a quello che una madre prova immaginando i singhiozzi e le grida del figliolo cattivo e fannullone che può perdersi e farsi male. E quando sollevato lo sguardo, i suoi occhi si incontrarono con quelli di lui, spenti e disperati. La sua compassione per lui vinse l'ira e tutte le altre ansie. Oh Fred, che brutto aspetto che hai. Siediti un momento, non andartene ancora. Lascia che dica allo zio che sei qui. Si è meravigliato a non vederti per una settimana intera. Mary parlava in fretta, dicendo le parole che le venivano in mente, senza sapere molto bene quali fossero, ma pronunciandole in un tono a metà fra il carezzevole e l'implorante, e nello stesso tempo alzandosi come per andare da Mr. Thurston. Naturalmente a Fred parve che le nubi si fossero aperte e che si fosse fatto strada un raggio di luce. Si spostò e le sbarrò la strada. Di una sola parola, Mary, e farò qualsiasi cosa. Di che non penserai male di me, che non mi abbandonerai completamente. Come se fosse piacevole per me pensare male di te, disse Mary in tono afflitto. Come se non fosse un gran dolore per me vedere che sei una persona oziosa e frivola. Come puoi sopportare di essere così spregevole quando gli altri lavorano e si impegnano e ci sono tante cose da fare? Come puoi sopportare di non essere adatto a nulla al mondo che sia utile? Con tante cose buone che ha il tuo carattere, Fred, potresti valere molto. Cercherò di essere qualsiasi cosa vuoi, Mary, se dirai che mi ami. Mi vergognerei a dire che amo un uomo che deve sempre dipendere dagli altri e conta su quello che farebbero per lui. Come sarei quando avrai 40 anni? Come Mr. Bauer, suppongo, proprio altrettanto ozioso che vive nel salotto di Mrs. Bick, grasso e malandato, nella speranza che qualcuno ti inviti a pranzo, a trascorrere le mattine, a imparare una canzonetta comica, oh no, a imparare una melodia sul flauto. Le labbra di Mary avevano cominciato ad arricciarsi in un sorriso. Appena ebbe fatto quella domanda sul futuro di Fred, le anime giovani sono volubili. E prima di aver finito il suo volto, era tutto illuminato dallo spasso. Per lui il fatto che Mary lo prendesse in giro era come la cessazione di un dolore, e con una specie di sorriso passivo cercò di raggiungerle la mano. Ma lei scivolò via veloce verso la porta e disse: Lo farò sapere allo zio. Devi vederlo per un paio di minuti. Fred sentiva in fondo al cuore che il suo futuro era al riparo dalla realizzazione delle sarcastiche profezie di Mary, indipendentemente da quel qualsiasi cosa che egli era pronto a fare se lei glielo avesse indicato. Alla presenza di Mary non osava mai affrontare l'argomento di quello che si aspettava da Mr. Fairston e lei non vi accennava mai, come se tutto dipendesse da lui. Ma semmai egli fosse giunto veramente a possedere la proprietà, lei avrebbe potuto riconoscere che la sua posizione era cambiata. Tutto ciò gli passò con calma per la mente prima di salire a trovare lo zio con calma. Si trattenne solo un po', poi si congedò dicendo che aveva il raffreddore e Mary non ricomparve prima che egli lasciasse la casa. Ma cammin facendo, cominciò ad avvertire di essere ammalato più che malinconico. Quando Caleb Garth arrivò a Stone Court, subito dopo l'imbrunire, Mary non ne fu sorpresa. Sebbene gli avessi di rado il tempo di fargli visita e non gradisse per nulla dover parlare con Mr. Fairston. Il vecchio, d'altro canto, si sentiva a disagio con un cognato che non riusciva ad irritare, al quale non importava essere considerato povero, che non aveva nulla da chiedergli e capiva ogni genere di lavoro agricolo e minerario meglio di lui. Ma Mary si sentiva certa che i genitori la volevano vedere e se suo padre non fosse venuto, avrebbe chiesto il permesso di andare a casa per un paio d'ore il giorno successivo. Dopo aver parlato di prezzi durante il tè preso con Mr. Fairston, Caleb si alzò per salutarlo e disse: Voglio parlarti, Mary. Lei portò una candela in un altro grande salotto dove non c'era alcun caminetto acceso e, posata la fiocaluce sul tavolo scuro di Mogano, si voltò verso il padre e, gettategli le braccia al collo, lo ricoprì di baci infantili che furono la sua delizia. L'espressione della larga fronte si distese come si distende l'espressione di un bel cane grande quando viene accarezzato. Mary era la sua figlia preferita e checché ne dicesse Susan, e per quanto avesse ragione su tutti gli altri argomenti, Caleb pensava che fosse naturale che Fred o chiunque altro giudicassero Mary più amabile di altre ragazze. Ho qualcosa da dirti, cara, disse Caleb col suo modo di fare esitante. Nessuna notizia molto buona, ma d'altra parte potrebbe essere peggiore. Si tratta di denaro, padre? Penso di sapere cos'è. Sì? Come può essere? Vedi, ho fatto un po' lo stupido di nuovo, ho firmato una cambiale e ora arriva il momento di pagarla. E tua madre deve rinunciare ai suoi risparmi. Questo è il peggio e anche quelli non bastano a sistemare del tutto la cosa. Avevamo bisogno di 110 sterline. Tua madre ne ha 92 e io non ho un centesimo da togliere dalla banca. E lei pensa che tu abbia qualche risparmio? Oh sì, ho più di 24 sterline. Pensavo che sareste venuto, padre, perciò le ho messe nella mia borsetta. Guardate, delle belle banconote bianche dell'oro. Mary estrasse le banconote piegate dalla sua borsetta di rete e le mise in mano al padre. Beh, ma come? Ne abbiamo bisogno solo 18, ecco, riprendi il resto, bambina mia. Ma come lo sapevi? Chiese Caleb, il quale nella sua invincibile indifferenza verso il denaro cominciava a preoccuparsi soprattutto del rapporto che la faccenda poteva avere con gli affetti di Mary. Fred me l'ha detto questa mattina. Ah, è venuto apposta? Sì, penso di sì. Era molto addolorato. Temo che non ci si possa fidare di Fred, Mary, disse il padre con un'esitante tenerezza. Forse le sue intenzioni sono buone, ma quello che fa. Ma credo che sarebbe una pena per la felicità di chiunque essere affascinata da lui. E lo crede anche tua madre. E anch'io, padre, disse Mary senza alzare gli occhi, ma appoggiandosi il dorso della mano del padre contro la guancia. Non voglio fare il ficcanaso, cara, ma temevo che ci potesse essere qualcosa fra te e Fred e volevo metterti in guardia. Capisci, Mary? A questo punto la voce di Caleb si intenerì, spingendo il cappello qua e là per il tavolo e lo fissava, ma alla fine rivolse lo sguardo verso la figlia. Una donna, per quanto buona possa essere, deve adattarsi alla vita che le fa fare il marito. Sua madre ha dovuto sopportare molto per causa mia. Mary portò il dorso della mano del padre alle labbra e gli sorrise. Beh, nessuno è perfetto, ma. A questo punto Mr. Garza scosse il capo per sottolineare le parole che gli parvero inadeguate. Quello che penso è, che vita deve essere per una moglie quando non è mai sicura del marito, quando non possiede un principio per cui abbia più paura di fare un torto agli altri che farsi pestare i piedi? Questa è la questione, in poche parole, Mary. I giovani si possono piacere prima di sapere cosa sia la vita e possono pensare che sia tutta una festa, purché stiano insieme, ma presto arriva il giorno di lavoro, mia cara. Comunque, tu hai più buon senso della maggior parte delle ragazze e non sei stata allevata fra le piume. Può darsi che non ci sia motivo che io ti dica questo, ma un padre trema per la propria figlia. E tu sei tutta sola qui. Non temete per me, padre, disse Mary, rispondendo con gravità allo sguardo del padre. Fred è sempre stato molto buono con me. È gentile, è affettuoso e non falso, credo, nonostante sia molto indulgente verso se stesso. Ma non mi fidanzerò mai con uno che non ha l'indipendenza che si addice a un uomo e che continua a sciupare il tempo aspettando che gli altri provvedano a lui. Voi e mia madre mi avete insegnato ad essere troppo orgogliosa per questo. È giusto, è giusto. Allora sono tranquillo, disse Mr. Garth, raccogliendo il cappello. Ma è duro scappare via con i tuoi guadagni, figliola, padre. Disse Mary col suo più intenso tono di protesta. Oltre a quelli, portate un sacco d'amore a tutti quanti a casa, furono le sue ultime parole prima che egli si chiudesse la porta d'ingresso alle spalle. Suppongo che tuo padre volesse i tuoi guadagni, disse il vecchio Thurston, con la sua consueta capacità di congetturare cose sgradevoli quando Mary tornò da lui. È sempre alle strette, immagino. Adesso sei maggiorenne. I soldi li dovresti risparmiare per te. Considero mio padre e mia madre la parte migliore di me stessa, disse Mary con freddezza. Mr. Thurston emise un grugnito. Non poteva negare che ci si potesse aspettare che una ragazza ordinaria come lei si rendesse utile. Quindi pensò ad un'altra replica, abbastanza sgradevole ad essere sempre appropriata. Se Fred Vincy viene domani, non trattenerlo con delle chiacchiere. Fallo venire su da me.